questa sera, cari radioascoltatori, vorremmo trattare con i nostri ospiti un tema molto delicato, soprattutto alla luce di quanto accaduto recentemente, il caso di Eluana Englaro. Vogliamo parlare con i nostri ospiti del disegno di legge sul testamento biologico, disegno di legge disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento. Disegno di legge che al momento è in discussione alla Commissione Sanità del Senato, disegno di legge su cui la maggioranza e l'opposizione hanno divergenze, sono punti piuttosto controversi, e appunto ne parleremo questa sera in diretta a Giro di Boa con i nostri ospiti. In studio qui a Bruxelles Francesco Cerasani, che lavora presso la delegazione italiana al gruppo del Partito Socialista Europeo, appunto al Parlamento Europeo, anche rappresentante del circolo del Partito Democratico a Bruxelles. Francesco, benvenuto, buonasera. E ne parliamo con il nostro ospite in collegamento, che è il dottor Giuseppe Vetrugno, medico legale che esercita a Roma. Buonasera Giuseppe. Quindi direi di partire innanzitutto con il nostro ospite, rappresentante appunto della delegazione italiana al gruppo del Partito Socialista Europeo al Parlamento Europeo. E vorrei chiedere a Francesco quali sono i punti fondamentali di questa proposta, di questo disegno di legge presentato dal relatore Calabrò, che è del Popolo della Libertà. E poi ovviamente con Francesco, in quanto rappresentante del Partito Democratico, parleremo di quelli che sono per il Partito Democratico i punti controversi di questa proposta. Sì, anzitutto dobbiamo ricordare il vuoto legislativo che c'è nel nostro paese rispetto a una materia così delicata e che fa sì, appunto, siamo arrivati a una situazione così, così tesa all'interno non solo del paese, ma che insomma è un tema che ci ha portato anche in Europa, sicuramente presentandoci non in una condizione, direi, onorevole. Tra i punti principali andrei a sottolineare il tema centrale, che è quello dell'autodeterminazione del paziente. Questo è un punto su cui poi arriveremo discutendo della posizione del Partito Democratico. Tutto si basa sulla volontà che il paziente esprime al proprio medico di famiglia, quindi il medico di base, con una redazione scritta delle proprie volontà rispetto al trattamento. Restando sul caso concreto, il caso di Eluana, appunto, anche per esemplificare meglio ai nostri ascoltatori quello che sarebbe successo con una disposizione di legge come appunto il disegno Calabrò prevede, ci sarebbe sempre stata paradossalmente la priorità della scelta del medico per quello che propone il disegno di legge, nel senso che rimane l'impossibilità di interrompere ogni forma di sospensione, appunto ogni forma di alimentazione e nutrizione del paziente. Questo è, appunto, restando al caso di Eluana, sarebbe stata la chiave che avrebbe potuto interrompere completamente, e questo rimane quindi nella proposta di disegno di legge, avrebbe potuto interrompere completamente ogni possibilità per la famiglia di Eluana Englaro di portare a termine le sofferenze di Eluana. Non entro, per un po' per pudore, un po' per rispetto ovviamente della persona di Eluana, nel giudizio su quello che è successo, in considerazioni anche forse per mancanza di contraddittorio, direi non vado a entrare, poi magari avremo tempo di discutere meglio nelle proposte del Partito Democratico, non entro sulla questione politica e lo dico, lo sciacallaggio che c'è stato rispetto al caso di Eluana, ma per essere brevi vorrei tornare a insistere sulla parola della volontà, la parola chiave che è volontà del paziente, cosa che manca in questo disegno di legge, purtroppo. Rimaniamo in una situazione in cui, anche con dei cavilli burocratici, che il paziente che intende esprimere le proprie volontà rispetto al fine vita, rispetto a questo tema, dovrà adempiere. È stato fatto un calcolo, ad esempio, dal senatore Marino, che come sapete ha avuto un ruolo fondamentale all'interno del Partito Democratico, all'interno del Senato stesso, per portare a una posizione rispetto a questa questione del fine vita. È stato fatto un calcolo dei cavilli e dei percorsi burocratici che un paziente e un medico dovrebbero avere. Il senatore Marino ha parlato ad esempio di 500, come media, insomma, ricorsi al notaio da parte di ogni medico di base. Pensate cosa significherebbe questo, per poter appunto formalizzare. Questo è stato un calcolo di media rispetto a quanti pazienti un medico di base in media ha. e altrettante migliaia quindi di interventi da parte dei notai, insomma, sarebbero interventi a titolo gratuito, ma comunque spese di tempo, proprio perché c'è un obbligo di redazione scritta. Questa è una novità anche rispetto al contesto europeo, questo va detto. Redazione scritta che, per come è prevista dalla relazione di Calabrò, è piuttosto formale, è su criteri molto molto stretti, molto restrittivi. Questo è uno dei punti che il Partito Democratico tende a denunciare. Ti riferisci alla dichiarazione anticipata di trattamento, che ogni cittadino avrà il diritto di stilare quando questa legge sarà in vigore, corretto? È tutto il testamento biologico che diventa tu curo una dichiarazione anticipata di trattamento. Diciamo, la materia viene derubricata veramente a un formulario, tra l'altro piuttosto restrittivo, che va anche aggiornato, andrebbe aggiornato ogni 3 anni, perdendo quindi valore se non si è poi fatto, e quindi appunto non dando possibilità poi di adempiere alle volontà già espresse eventualmente. In quel caso capite come in ogni senso la volontà del paziente, la volontà di disporre liberamente della propria vita, non riuscirebbe ad avere rispetto. Questo lo dico, poi ci entreremo anche dopo, dimenticando il dettato della Carta Costituzionale. Si è parlato spesso in questi giorni dell'articolo 32, laddove si pone e si sancisce l'assoluta impossibilità di non disporre liberamente del diritto alla propria salute, di disporre liberamente a come essere trattato. È una materia sicuramente complessa, ma che poi può avere interpretazioni che conducono fino al diritto alla sospensione della nutrizione. Questo è il punto centrale. Magari su questo torniamo in seguito, vorrei ritornare ai punti fondamentali della legge. Quindi abbiamo questa dichiarazione anticipata di trattamento, quindi che ogni cittadino maggiorenne potrà redigere e lo potrà fare presso un notaio a titolo gratuito. Queste dichiarazioni sono revocabili accompagnato dal medico di base. Queste dichiarazioni sono revocabili e modificabili e, come dicevi tu, hanno una validità di 3 anni, termine oltre il quale perdono di significato. Leggo che l'articolo 7 prevede la nomina di un fiduciario che, in collaborazione col medico curante, si impegna a far sì che si tenga conto delle dichiarazioni sottoscritte dal paziente. Per esempio, vorrei appunto solo sul margine dei 3 anni, vorrei ricordare una delle proposte invece del senatore Marino per il Partito Democratico. Propone l'estensione a 5 anni, dopodiché al primo rinnovo è sostanzialmente, a meno che non c'è una modifica espressa da parte del paziente, si dà per assodato che quella sia la volontà finale del paziente, fermo restando la libertà di modificare. Questo perché? Perché torno sul punto dell'eccessiva burocratizzazione di tutto questo procedimento. Beh, c'è il sospetto, che è evidente, si fa di tutto per poter togliere la libera disposizione delle proprie volontà rispetto a un tema così delicato e personale, evidentemente, come il fine vita. Capite che se il paziente deve avere l'obbligo di rinnovare ogni 3 anni, rischiando addirittura di perdere ciò che liberamente ha disposto di fare, beh, insomma, è evidente che la libertà... Però mi sembra che in questo possa essere nessun dubbio che valga ancora anche dopo i 3 anni. No? Beh, nella proposta Calabrò è una proposta che va scritta, quindi redatta, non ha valore se non è scritta, perde valore, tra l'altro, seppure scritta, se non riaggiornata. Quindi capite come siamo su un'involuzione. È vero che in Italia la disciplina non è mai stata regolata, ma se guardiamo al resto d'Europa siamo su forme più flessibili, che evidentemente non vanno soltanto a considerare il mero formalismo di come è redatta una dichiarazione, ma è chiaro che si lascia spazio alla libertà della persona. È evidente, vanno posti dei criteri, su questo siamo d'accordo, ma mi sembra che si sta scherzando purtroppo con materie troppo delicate. Non dimentichiamo di cosa stiamo parlando, ecco. Giocare con i cavilli burocratici su una materia come questa mi pare, non so come definirla, qualcuno ha parlato di idolatria in un qualche modo. Per quanto riguarda le critiche che sono state poste e che sono state rivolte al disegno di legge sulla sua eventuale difficile applicazione, vorrei tornare appunto sul punto del rinnovo triennale, vorrei leggere quanto ha detto il senatore Calabrò rispondendo in un'intervista a questa domanda. Secondo i detrattori è una legge di difficile applicazione, è davvero così? E il senatore ha risposto: per quanto riguarda il rinnovo triennale delle volontà, basterà ad esempio che venga organizzato uno sportello presso gli ordini dei medici dove il cittadino possa trovare un medico e un notaio. Non vedo le complicazioni burocratiche di cui si parla. Mi permetti, va da sé, certo. Lo conosciamo, pur abitando all'estero ci ricordiamo lo stato del nostro sistema sanitario nazionale, insomma direi che forse saranno altre le priorità per i pazienti e per i medici stessi, quindi io non sono ovviamente un medico, non sono un professionista del settore, ma insomma poi il medico che è in collegamento potrà forse dirci come la pensa rispetto a questo tema. Si è parlato dell'articolo 7, appunto. Una prima riflessione che si impone, e parlo qui da medico e quindi da uno di coloro i quali che dovrebbe poi intervenire nella messa in pratica delle disposizioni, è la farraginosità incredibile con tutte queste procedure burocratiche che vengono previste e che rendono di fatto inattuabile la norma, perché cioè, si fa presente praticamente tra i tanti passaggi che il medico curante dovrebbe controllare: la validità del lavoro del fiduciario, che si tratti del coniuge, il convivente, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno, il comitato etico, il ministero, il giudice tutelare. Cioè praticamente non è credibile che questa serie di passaggi possa essere affidato sotto il vaglio del supervisore, del medico curante, prima di tutto. Fermo restando che poi dopo si tratta di una serie di passaggi talmente lunghi e talmente complessi, quasi da scoraggiare il paziente stesso, se uno va a pensare a quello che dovrebbe essere l'obiettivo della norma, che è quello di tutelare un diritto soggettivo, in realtà così si rende pressoché impossibile l'esercizio di questo diritto. Questo mi fa consolidare in una convinzione che di fatto non ci sia necessità alcuna di una norma di questo tipo. Infatti volevo proprio farti una domanda a riguardo. Inizialmente si parlava di vuoto legislativo e di vuoto normativo, ma è veramente così la situazione? Beh, la vicenda stessa che è salita alle cronache fondamentalmente dimostrerebbe esattamente il contrario. La Corte di Cassazione si è pronunciata due volte su questo caso. Una prima volta si è pronunciata con un ramo singolo per rigettare una prima pronuncia della Corte d'Appello di Milano che aveva negato il diritto al tutore, al papà di Eluana, ragionando proprio in termini di inserire la richiesta nel contesto del rifiuto di cura e quindi dell'esercizio del consenso informato del paziente. Sentivo prima il rappresentante del Partito Democratico che parlava ovviamente di autonomia del paziente, di volontarietà, no? come principio cardine di una norma che dovrebbe tutelare questo tipo di accesso. Però bisogna anche rendersi conto che l'autonomia o la volontarietà comporta una serie di situazioni che per chi pratica la professione medica ci si rende conto sono difficili da raggiungere, perché l'autonomia presuppone che ci sia una consapevolezza nelle scelte. Questa consapevolezza, il paziente, è inutile girarci attorno, è un aspetto mitico del consenso informato. Non è difficile che un paziente sia pienamente consapevole e raggiunga la piena informazione per potersi poi determinare in maniera volontaria e libera nelle scelte che ne derivano per la sua salute. È una quasi una chimera quella di cui stiamo discutendo. Però su questa chimera la giurisprudenza del nostro paese, interpretando delle norme che sono di rango costituzionale, l'articolo 2, l'articolo 32, diceva prima il rappresentante del Partito Democratico, ma c'è anche l'articolo 13, no? Che è la libertà tutelata dalla nostra Costituzione, sono le norme di riferimento a cui si è agganciato tutto quel filone giurisprudenziale che ha statuito la necessità del consenso informato quale concetto imprescindibile per rendere lecito il trattamento medico. Per cui un trattamento medico, un atto medico, è lecito solo in presenza del consenso. In assenza del consenso non è lecito. Su questo la giurisprudenza è pacifica. E le norme di riferimento, ripeto, sono di carattere costituzionale, ma sono anche di carattere ordinario. La legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la 833 del 78, distingue i trattamenti involontari e obbligatori, e il trattamento volontario è quello che non può prescindere dal consenso del paziente. Quindi quando un paziente rifiuta le cure, quindi esprime il proprio dissenso, in automatico le cure non possono essere fatte. Questo è il ragionamento su cui diciamo converge poi la Suprema Corte, e quindi se queste cure significano praticamente che a quel punto la malattia segue il decorso fino alla morte, beh, quel tipo di scelta è lecita. Questo è il ragionamento principale. Allora, se di che cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di un testamento biologico? Il testamento biologico presuppone che il paziente venga informato di quelle che possono essere le prospettive in futuro del mondo medico, ma non le sappiamo nemmeno noi che siamo i medici. Stiamo discutendo di accanimento terapeutico, ma lo stesso collegio di medici non è in grado di arrivare ad una definizione compiuta di accanimento terapeutico. Il codice deontologico ne ha subito tante e tante di rielaborazioni negli anni. Dal 95 al 98, al 2006, ci sono state tre rielaborazioni consecutive, e sulla definizione di accanimento terapeutico si è arrivati alla fine ad una definizione estremamente lata, in cui si può dire tutto e il contrario di tutto, proprio a dimostrazione del fatto che tra noi tecnici, tra virgolette, tra coloro i quali dovrebbero essere i più avvertiti di fronte a questo problema, non c'è unità di intenti per arrivare ad una definizione compiuta. Figuriamoci i nostri poveri legislatori, che è ovvio che arrivano a delle soluzioni difficilmente concilianti. Capisco qual è la difficoltà. Volevo intervenire su questo punto. Di trattamento biologico e di accanimento terapeutico si parla in Italia da almeno 10 anni e non si riesce a raggiungere ad una soluzione. Si voleva approfittare, tra virgolette, di una situazione di emergenza per trovare una soluzione che poi non sarebbe stata ecco, tale. Fammi aggiungere, il problema è: c'è o non c'è un riferimento normativo sufficiente, c'è o non c'è il vuoto normativo, perché se non c'è, cioè se assumiamo che la Corte di Cassazione avesse creato un precedente e dunque fonte del diritto, non mi spiego perché la mobilitazione di massa di certa parte della popolazione contro invece la sentenza della Corte di Cassazione stessa. Ma no, non hanno creato un precedente, perché voglio dire, di consenso informato in Italia si parla almeno 20 anni, è ha assunto una rilevanza giuridica di fondamentale importanza da almeno 20 anni a questa parte. Naturalmente sono state oscillanti nel tempo le interpretazioni su questa materia, queste sentenze non è che hanno colmato un vuoto, si sono volute sostituire al legislatore, perché le norme già c'erano. La sentenza che ha dato origine al caso di Eluana Englaro è una sentenza che si richiama ad altre sentenze della Cassazione in materia di rifiuto di cure. Voglio dire, casi di rifiuti di cure che mettono in gioco il diritto alla vita sono stati discussi in Cassazione, mica una volta sola. Almeno due volte la Cassazione si è trovata di fronte prima ancora di Eluana Englaro, a situazioni di pazienti che in virtù del loro credo religioso hanno posto in gioco il diritto alla vita rifiutando le trasfusioni di sangue, e in quelle circostanze la Cassazione era arrivata a stabilire anche la liceità del rifiuto espresso dal testimone di Geova di fronte a quel tipo di situazione. Arrivando a giustificare quello che chiedevo, nel il caso specifico medico effettuato contro il consenso solo in ragione dello stato di necessità, cioè del fatto dell'immediato pericolo di vita, ma attenzione, lo stato di necessità non è che è una condizione che rende lecito il trattamento, semplicemente fa sì che il trattamento, restando illecito, il medico che lo esegua non ne paghi le conseguenze penali. Ma parliamo un po' dal punto di vista giuridico, allora. Concetto discriminante la sua necessità. Quindi la Cassazione non ha stravolto in alcun modo il modo di pensare su questi argomenti, che esiste in Italia da almeno 20 anni. Chi esercita la professione medica Lo sa benissimo. Francesco, tu come rispondi? Quindi no, Giuseppe sta dicendo che non c'è vuoto legislativo. Soprattutto all'inizio il punto che si è posto è anche se c'è l'esigenza o meno di disciplinare la materia. Mi sembra, sappiamo la situazione nel Paese, al di là da quanti anni non si è legiferato su questo, è che abbiamo un problema che finora si risolve nell'ombra, e su questo lo sappiamo tutti, conosciamo per casi familiari, personali, quante volte di fatto il fine vita viene trattato così del tutto informalmente, lo dico, nell'ombra, e fosse così sarebbe facile, in modo un po' pilatesco direi, e quindi credo che c'è l'esigenza di disciplinare tutto quanto. Siamo in una fase in cui la discussione è cominciata, è bene che si vada avanti, questo il Partito Democratico l'ha anche detto, non dico che è meglio una cattiva legge piuttosto che una legge che non c'è per niente, evidentemente per il bene di tutti quanti, per l'interesse dei pazienti, poi certamente si è posto finalmente il problema, e se potessimo finalmente arrivare a disciplinare la questione già sarebbe un passo avanti. Ritorno però su quello che è la discussione oggi in Senato. Qua lo dico chiaramente, la libertà di scelta di cui poi si discute tanto, a cui appunto anche il nostro interlocutore faceva riferimento, qua non c'è, io direi che è messa in gioco. Non abbiamo approfondito il tema, e su questo poi lascio la parola appunto al medico che è con noi, non è stato discusso il fatto che la nutrizione e l'alimentazione non sono oggetto, non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Questa mi pare che sia una cosa che debba essere affrontata, e vorrei da parte sua un commento su questo, allora se permette. No, condivido diciamo il discorso dell'alimentazione che debba essere affrontato, nel senso che va data una definizione rispetto alla sua qualificazione come trattamento sanitario o meno. Ora, è evidente che l'alimentazione in quanto tale fa parte di una condizione fisiologica per ciascuno di noi. Ciascuno di noi necessariamente si alimenta e assume le bevande. Il problema però è che la modalità con cui le si assumono le bevande, se per alimentarsi ho la necessità, perché non ho la capacità di deglutire, di un sondino, il sondino è un trattamento, quindi è evidente che comunque rientra nel concetto del trattamento sanitario, e quindi si presta al discorso del consenso o del suo eventuale dissenso in determinate condizioni. Ad esempio faccio presente che l'attuale codice deontologico prevede, proprio in materia di rifiuto di alimentazione, di soggetti che sono compos sui, cioè che sono capaci di esprimere un valido dissenso, prevede proprio un articolo, rifiuto consapevole di nutrirsi. Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, quindi stiamo parlando di persone che possono alimentarsi da sole perché non hanno bisogno né di sondini né di altro, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto potrà comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze, il medico non deve assolutamente assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive. Questo problema, diciamo, ripeto, è un problema che ha già delle discipline. E anche se spaventa il discorso, io lo percepisco pure, diciamo, lo posso anche ammettere, il discorso della soluzione nell'ombra. Non è una soluzione nell'ombra, è una soluzione che si instaura tra il paziente e il medico e il curante. È una soluzione, diciamo, in cui non ci vedo niente di ombroso, anzi ci vedo una cosa abbastanza... Certamente non è disciplinata, su questo non per rimanere... Com'è? Certamente la materia non è disciplinata, anche se poi lei sta parlando di altre disposizioni che... Ma non è disciplinata in maniera positiva, definitiva, ecco. Ma vi faccio... Però allora ci chiediamo allora... Lei è un, diciamo, un potenziale legislatore, vi faccio presente che trovare la traduzione positiva di questa problematica così complessa è difficilissimo, perché è difficile che, partendo da sensibilità etiche naturalmente differenti, si pervenga a soluzioni di definizione di alcuni aspetti, perché naturalmente le incontrerà sempre, lei che diciamo appartiene ad un credo politico di una certa coloritura, incontrerà sempre le difficoltà, le diffidenze di chi non la pensa come lei in termini appunto per esempio di nutrizione. Mi rendo conto che quelle diffidenze poi alla fine dal punto di vista scientifico non hanno ragion d'essere, questo parlo da tecnico, gliel'ho già spiegato, naturalmente la nutrizione avviene per il tramite di presidi sanitari, e il presidio sanitario è il trattamento, non la nutrizione, e quindi è come se non vige sono d'accordo, la regola del consenso e del dissenso. Sono d'accordo con lei, diciamo, trovare un punto di incontro sull'accanimento terapeutico, per esempio. Qual è il punto di incontro dei nostri attuali parlamentari? Non c'è, ma non c'è nemmeno tra noi medici. Se noi andiamo a leggere l'articolo 16 del nostro codice deontologico, l'ultima versione, quello del 2006, uno lo legge, lo leggo così praticamente è ancora più chiaro. Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e o un miglioramento della qualità della vita. Uno volendo potrebbe prendere questa norma che è del codice deontologico e trasferirla nel disegno di legge e poi eventualmente produrla in legge, ma l'applicazione e l'interpretazione di questa norma è la più disparata possibile, perché c'è chi la potrebbe interpretare in maniera fortemente restrittiva e quindi limitarsi a quelle condizioni estreme, quali magari il caso di Luana Englaro potrebbe anche essere diciamo interpretata, ma altri potrebbero invece estenderla ritenendo ad esempio, visto che si parla di ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere, quindi anche quei trattamenti che hanno una beneficialità, hanno una funzione, hanno una efficacia terapeutica però ridotta, quindi magari tutti quei casi di pazienti neurologici che non hanno grosse aspettative da una terapia, beh, allora perché fargliela? Ma questo è aberrante, non so se ho no, certamente, teoria. Però vorrei ritornare anche sulla questione, appunto proprio su quello di cui si parla in Senato in questi giorni e quello poi verso quale gli italiani dovranno misurarsi nel ricordarsi appunto come si è affrontata la questione. Qua c'è in ballo la libertà di scelta, mi scusi, qua c'è in ballo la libertà del cittadino, abbiamo dei principi costituzionali. Ma perché la libertà uno la debba rispettare? No, e soprattutto non debba essere aggirata la libertà, qua siamo in presenza di una disposizione di legge che sostanzialmente va a annullare alcune parti della libertà del singolo concordo individuo. Questa mi sembra una cosa basilare e minima che non su cui quella legge. Non so se no, io non sono d'accordo. Per poter ottenere la tutela di quella libertà, già l'ordinamento già li offre. Non si sarebbe posto il problema. Luana Englaro sarebbe potuta benissimo morire in un paese, sarebbe benissimo potuto andare all'estero e terminare. Ma Luana Englaro è morta nel nostro paese, non è esattamente, è morta nel nostro paese perché la battaglia politica che il padre ha voluto condurre, ed è una battaglia, una scelta, una testimonianza, certo, i 17 anni di sofferenza per i quali evidentemente avrebbe potuto terminare con largo anticipo e purtroppo sappiamo com'è andata, proprio come testimonianza politica per porre la questione all'interno del nostro ordinamento, quindi evidentemente si risponde da sé quella questione. Sono sempre convinto che è meglio legiferare e aggiungere diritti piuttosto che tenere situazioni di fatto nell'ombra. Io insisto su questo tema e credo che non è da stato liberale e moderno e democratico condurre le cose così, appunto, in modo nascosto, sapendo che tutti lo fanno ma senza il diritto poi di poterlo fare. Voglio dire, non c'è niente di nascosto. Di rifiuti di terapie sono all'ordine del giorno, cioè non c'è niente di nascosto in tutte queste vicende. Il problema di Luana Englaro nasceva da un altro punto di vista e qui poi c'è la critica che viene fatta a quel tipo di sentenza, ma è una critica, voglio dire, non è che se ne sta contestando la legittimità. Chi l'ha fatto, diciamo, voglio dire, ha dato dimostrazione di forse di scarsa dimestichezza con le regole democratiche, però voglio dire, la sentenza, diciamo, della Cassazione è criticabile soltanto, a mio modesto avviso, in due aspetti. Il primo aspetto praticamente è quello per cui, ripeto, l'unica liceità del trattamento sanitario è attribuita al consenso o dissenso del paziente. Su questo, permettetemi, da medico avrei delle riserve da esprimere, perché a questo punto significa che anche un trattamento fatto con una finalità terapeutica in questa cornice interpretativa non sarebbe lecito, obiettivamente, ho qualche perplessità in merito. Ma l'aspetto su cui, diciamo, obiettivamente la sentenza, le due sentenze della Cassazione mi sembrano diciamo criticabili, è il fatto appunto che come fa una persona che non è capace di esprimere il consenso, nel caso appunto quello di Luana Englaro, a poterlo trasmettere, diciamo, al curante. Come fa a farlo? E qui appunto si pone il problema del testamento biologico. La Cassazione lo risolve dicendo: si può tenere conto di quelle che sono le testimonianze, gli stili di vita, quindi ricorrendo a criteri presuntivi, va bene? Col testamento biologico questi problemi si creerebbero lo stesso, perché nel momento in cui io formulo delle dichiarazioni anticipate rispetto a determinati eventi e le formulo, diciamo, adesso, in questo momento, in questa serata, esprimo da Giuseppe Vedrugno una serie di volontà anticipate. Fra 2 anni e mezzo, mettiamo, la scienza riuscirà ad individuare delle condizioni che mutano necessariamente la situazione in cui Giuseppe Vedrugno ha maturato la scelta in questo momento. Come faccio a dire praticamente che a quel punto, posto di fronte ad una situazione fortemente debilitante o disabilitante, Giuseppe Vedrugno non muta idea? Come lo faccio a sapere? Dovrei conoscere come è fatta la persona. E come lo faccio a fare? Il caso di Englaro si risolve nell'ambito del contraddittorio di un processo. È così che si è risolto. E così si risolverebbe anche in caso di testamento biologico. Possiamo starne certi. Non solo per i formalismi burocratici che, diciamo, il disegno di legge ha introdotto, che sono veramente incredibili, sfiorano il ridicolo. E su questo concordo con la critica che è stata avanzata prima dal rappresentante del Partito Democratico. Però, voglio dire, si creerebbero comunque, perché è una volontà comunque preesistente rispetto a quella che dovrebbe essere quella necessariamente rivista, che è quella attuale. Non a caso la Cassazione individua una soluzione, sempre in una norma di legge presente nel nostro ordinamento, che è quella della figura del tutore o dell'amministratore di sostegno, il quale decide non al posto di qualcuno, ma decide con qualcuno, quindi tenendo conto di quelli che erano gli stili di vita. E quindi, come si vede, le norme già ci stanno, non c'è da inventarsi niente. Si decide caso per caso, secondo le sue procedure, quindi quelle che già sono state tracciate. Giuseppe, qualora si verifichi un caso similare in futuro, un tutore, un padre, un fratello, si può rivolgere al medico curante del paziente, valutando praticamente Giuseppe, scusa se ti interrompo, valuterà se a quel punto quella persona, che può essere il fratello, il padre, la madre, il coniuge, rivestita di una veste, diciamo, più di rappresentanza legale, quale può essere il tutore o l'amministratore di sostegno, prenderà la decisione non al posto di... Continua a non capire dove... È impossibile, perché se uno vuole rispettare la libertà personale, non può sostituirsi a qualcun altro. Appunto, continua a non capire per questo dov'è il problema, attribuire il diritto fondamentale al singolo nello stabilire, nel disporre. Perché ce l'ha già, ma non capisco perché non legiferare, non disporre. Beh, non è, purtroppo. È l'articolo 32. Sappiamo bene anche rispetto alle politiche del lavoro, come un diritto fondamentale, purtroppo non esigibile, insomma, quindi che c'entra? Quello che dice il medico Vedrugno è che ci sarà sempre una zona grigia. Ma su questo, evidentemente, esistono per questo le possibilità, appunto, di analisi caso per caso, ma vengono dopo la codificazione, la concessione e l'allargamento e l'estensione di un diritto che oggi non c'è. Su questo io insisto. Il tentativo di positivizzare questo tipo di esigenza comporterà soltanto ulteriori aggravi burocratici e di interpretazioni. Per come è presentato oggi, certamente per come oggi viene posta la questione, sì, io credo che possa invece essere un'acquisizione necessaria, anche non soltanto in termini di punto di vista ideale, di crescita di diritto per il paese, di ammodernamento stesso del nostro ordinamento, credo sia invece anche una necessità, e continuo a credere che andare avanti senza una positivizzazione, come poi lei ha detto prima, non sia utile. Non è così nel resto d'Europa, tra l'altro, diciamo anche le cose. Guardi, per esempio nel resto d'Europa, visto che vogliamo ragionare anche in termini di confronti con le realtà degli altri paesi, ora non guardo la realtà dell'Olanda, perché in Olanda hanno fatto già una scelta ancora più estrema rispetto a quella che già ha creato una sorta di spaccatura nel nostro paese, il caso Englaro. Guardiamo invece la Spagna, no? Che è un paese, diciamo, di cultura latina, di tradizioni, diciamo, di tradizioni latine. Lì diciamo c'è una legge spagnola del 2002 che dice sostanzialmente questo: un medico che si trova a trattare una persona che ha rilasciato dichiarazioni anticipate e che in quel momento non è capace di esprimere il suo volere, ha il diritto di porre dei limiti da medico, perché vuol dire esiste la libertà del paziente, esiste anche la libertà del medico, visto che dobbiamo tutelare le libertà. I limiti sono quelli della legge dell'arte medica, che se fossero in contrasto con le dichiarazioni anticipate accorderebbero al medico anche il diritto di rifiutarsi di dare le cure. Questo che cosa comporta in Spagna? Comporta che anche lì, diciamo, il percorso che il legislatore ha voluto individuare ha creato comunque delle difficoltà, perché anche lì la giurisprudenza spagnola era arrivata, sulla base delle norme costituzionali, a tracciare dei percorsi che sono analoghi a quelli che diciamo la nostra giurisprudenza ha tracciato interpretando ermeneticamente le norme già esistenti, in maniera molto più chiara, cristallina e anche quasi più agevole rispetto a quelle che i nostri legislatori molto spesso diciamo tendono a complicare. Secondo te ci sarà il bisogno del ricorso al referendum? Nei confronti di un'interpretazione che attribuisce al consenso informato e al dissenso diciamo un valore di unico effetto legittimante il trattamento medico. Una domanda da cittadina: l'articolo 5 di questo disegno di legge, come si diceva in apertura, riguarda le cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento sui trattamenti medico-sanitari di fine vita in previsione di una futura perdita delle capacità di intendere e di volere. Quindi io da cittadina, quando mi troverò a redigere questa dichiarazione, dovrò esprimermi su trattamenti medico-sanitari, ma quali? Dovrò indicare un orientamento generale. Sto semplificando dicendo non voglio essere attaccata ad una macchina. Che tipo di trattamenti un cittadino, quindi un qualunque cittadino, non un medico, potrà riferirsi? Non si sa nemmeno quali sono le situazioni, cioè vuol dire ogni situazione comporta un determinato trattamento. Quindi innanzitutto quali situazioni si potranno andare a configurare e quali sono a questo punto i trattamenti collegati? Evidentemente saranno dichiarazioni molto generiche, suscettibili poi di contestazioni. Non so se ho reso l'idea. Ecco perché dico che alla fine il percorso, l'accesso al tribunale ci sarà comunque. Mi dispiace essere un po' così sul... No, si parla anche di ricorso alla stessa consulta alla Corte Costituzionale, se è per questo, ma lì il profilo non è caso per caso, è proprio di costituzionalità rispetto alla stessa legge, proprio perché c'è in ballo la libertà del paziente. Io mi pongo su un profilo diverso rispetto a quello che lei sta tracciando, ma sono d'accordo anch'io che per come è proposta la legge porterà a conflitti giuridici piuttosto importanti. No, questa legge rende, per come è tracciata in questo momento, sostanzialmente è soltanto una sorta di una somma di ostacoli burocratici, sostanzialmente inapplicabile. Cioè, questo parlo da chi l'ha letta e la, diciamo, ne prevede l'eventuale applicabilità, ed è per questo che ribadisco esistono già delle norme di riferimento. Lasciamo le cose, diciamo, alla gestione del rapporto medico-paziente. Esiste un codice deontologico che già ci dovrebbe guidare e diciamo, in cui il concetto di alleanza terapeutica è ben specificato nelle sue forme, sia della somministrazione delle terapie sia che dell'abbandono terapeutico. Lasciate rispettare la libertà del paziente e la libertà del medico, che è disciplinata nel codice deontologico, che ha una sua dignità, una sua rilevanza anche in termini di espressione giuridica. Francesco, vorrei tornare alla politica, quindi tu sei rappresentante del Partito Democratico qui a Bruxelles. Ieri il Partito Democratico, se non sbaglio, ha votato una mozione che poi però è stata bocciata dal Popolo della Libertà, appunto su quelli che sono per il Partito Democratico alcuni punti chiave della sua proposta. Ecco, poi l'abbiamo già enunciata poi nella nostra discussione di questa sera. Puoi ricapitolare quelli che sono i punti fondamentali per voi? Sì, li ricordo Velocemente, anzitutto è evidente la, il principio chiave è quello della libera disposizione della volontà del paziente e su questo il diritto di scelta rimane invece una necessità da rendere positiva e su cui invece bisogna legiferare. Questa è la posizione principale del Partito Democratico, che accusa la proposta Calabrò di essere troppo restrittiva proprio perché burocratizza la morte. Purtroppo, passatemi questa definizione forse un po' troppo brutale, ma riteniamo che sia così. La libertà dei pazienti è negata, c'è una critica rispetto all'omissione della nutrizione e del continuamento della nutrizione e dell'alimentazione all'interno del testamento biologico, perché non ne sono oggetto, e poi tutte le entravi, gli ostacoli burocratici di cui abbiamo parlato finora sicuramente sono posti in causa. Questa è una cosa importante. Insisto sulla questione del rinnovo obbligatorio triennale per il Partito Democratico, 5 anni più la possibilità di un rinnovo illimitato, quindi con la stessa forma giuridica, una validità che non è solamente legata al testo scritto. Questo è un punto anche importante. Sulla parte politica io non vorrei entrare in polemica con il nostro amico, che d'altronde esprime una professionalità sicuramente elevata rispetto alla materia e con cui non posso entrare in discussione su tematiche così delicate. Sappiamo che la bioetica su qualunque tema, e su questo, sul fine vita certamente più di tutti, porta a casi di estrema difficoltà o anche proprio nel complesso molto difficili da gestire. Continuo a ritenere, l'ho detto tutta la sera, che ci sia la necessità di porre la questione al Paese, altrimenti il caso Englaro sarebbe stato vano, non solo per tutto quello che il caso di Eluana Englaro ha rappresentato. Purtroppo c'è stato un'eccessiva, per colpa dei media, per colpa anche dell'atteggiamento del governo, un'eccessiva focalizzazione sul caso della povera ragazza. Abbiamo visto le immagini di Eluana e abbiamo letto tutti invece le interviste, ad esempio, della giornalista della RAI del Friuli, che è potuto entrare nella stanza di Eluana e l'ha vista, e quindi per rispetto ovviamente del padre, per scelta stessa del padre, le immagini non sono state poste. Ma mi chiedo, allora, è stato vano quindi il caso e il dibattito che c'è stato? Quindi, se veramente pensiamo che non sia necessario dover legiferare su questo, io credo che un paese che punta a essere più moderno e che punta a dare più libertà e diritti ai propri cittadini non può che affrontare la questione, che tra l'altro è anche in linea con questo, va avanti con il resto d'Europa, con la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. C'è una convenzione del 97, la cosiddetta convenzione di Oviedo, in cui il consenso libero ed informato del paziente è il punto cardine rispetto a qualunque questione bioetica. Credo che non dovremmo dimenticare questi principi, specie per noi che siamo in Europa e abbiamo visto un po' come funziona. Il disegno di legge ora in discussione alla Commissione Sanità del Senato, quale sarà l'iter successivo, quando ci sarà il voto? Ci sarà la navetta solida cosiddetta, quindi il passaggio di letture tra i vari rami del Parlamento, una discussione che parte dalle commissioni e poi andrà avanti invece nei rami plenari. Si parla entro l'estate, insomma, di una definitiva entrata in vigore eventualmente del provvedimento. Questo dipenderà dai tempi che sono stati tracciati, ma sapete, le priorità politiche poi possono assumere tempi e modi diversi di discussione. Giuseppe, sei ancora in collegamento? Un'ultima battuta, siamo veramente in chiusura. Ho sentito il commento ultimo fatto dall'onorevole. Io naturalmente rimango della mia opinione, volevo soltanto dire, a proposito di esperienze di altri paesi, l'Austin Center, che è uno dei centri di bioetica tra i più rilevanti nel mondo, nel 2004 ha pubblicato una relazione dal titolo Enough, the failure of the living will, cioè basta si dichiara il fallimento del testamento biologico, che negli Stati Uniti è nato peraltro senza disciplina positiva, perché lì il percorso è diverso, è più giurisprudenziale, è nato negli anni 70 e che in 40 anni ha mostrato la sua evoluzione e il suo declino. Noi abbiamo una sorta di strana esegesi legislativa. seguiamo sempre il flusso, diciamo, degli Stati Uniti a distanza di anni e anni di ritardo. Adesso ci siamo innamorati del testamento biologico, no, e probabilmente riteniamo che questa sia la panacea di tutti i mali, quando dall'altra parte dell'oceano stanno già riflettendo efficacia o meno di questo sistema. Faccio presente che è vero che va tutelata la libertà degli individui. La Convenzione di Oviedo la conosco benissimo, peraltro è stata anche recepita con legge di ratifica nazionale. Mancano dei decreti attuativi, su questo non ci piove, ma è una norma che peraltro viene anche richiamata nelle sentenze che riguardano il caso. Francesco volevi rispondere? Una battuta sugli Stati Uniti, perché tra i primi provvedimenti di Obama, lo sappiamo, cioè il congelamento di tutte le misure di Bush rispetto al divieto di ricerca e di utilizzo sugli embrioni, è un'altra materia, tocca però un tema sensibilissimo. È un altro discorso, ma credo che può essere in linea con quello di cui... Quelle norme praticamente rientrano nella politica antiabortiva che Bush... credo, dello stesso discorso, della stessa idea di libertà di disposizione dello Stato, del ruolo dello Stato rispetto all'individuo, che in maniera un po' impropria è stato associato al caso di Englaro. No, è diverso, su questo è verissimo il caso della... diciamo, di fronte alla sentenza della Corte Suprema si è fermato, non so se c'è, cioè, a dimostrazione anche di... siamo veramente in chiusura rispetto alla separazione di poteri e interpretazione delle norme. Per la cronaca, scusatemi, Francesco, la parola onorevole vorrei togliere, non sono per dovere di cronaca, voglio dire. È un augurio. No, beh, oddio, speriamo. È un augurio. Dobbiamo cambiare argomento. Dobbiamo veramente chiudere, ringraziamo i nostri ospiti, il dottor Giuseppe Vetrugno in collegamento da Roma e Francesco Cerasani qui in studio a Bruxelles. Grazie per essere intervenuti e a risentirci con Giro di Boa alla settimana prossima. Buonasera. Buonasera.